init music. Init for you. Init your music for you. Con contributi elettronici, rock ed indipendenti per una nuova esperienza di suono. Suono. Music for you, contenitore sonoro di sperimentazione musicale strutturato per l'amplificazione elettronica. Accoppiata Radio Sandona 102-200, Radio Sherwood 97 e 800 in onde medie. Music for Youth ritorna, è l'ultima settimana di questo 2010 e la puntata non può che essere atipica. Perché atipica? Perché a condurla ci sono tristemente solo io, per cui vi beccherete un'ora di solo lele dal momento che il buon Alvise Favotto è stato sepolto dai panettoni. Quindi eccomi qui sostanzialmente, una puntata anche senza ospiti, per cui uno studio deserto, io che guardo le pareti e sostanzialmente ben poco da aggiungere. La digestione è ancora in atto, non so che cosa abbiate ingurgitato voi per Natale, ma sappiate che qui c'è veramente di cui discutere dal punto di vista gastrointestinale. Un'ora un po' diversa, come dicevo poco fa. Perché un'ora diversa? Perché sostanzialmente, vista l'assenza di ospiti e co-conduttori, andremo a vedere che cosa ci ha portato questo 2010 e andremo anche a pescare indietro nel tempo per vedere quanto di buono ci hanno portato gli anni passati. Sarà sostanzialmente un'ora di rotazione musicale pressoché continua, intervallata sfortunatamente solo da qualche mio accenno per introdurre gli artisti che incontreremo durante la via. Cominciamo, giusto per cominciare, dai Surfer Blood. Il pezzo è Floating Vibes. I Surfer Blood testimoniano, secondo me, se ancora tutto sommato ce n'è bisogno, quel buon momento di forma che sta vivendo l'India stella le strisce praticamente per quanto riguarda gli Stati Uniti e la Florida, che già ha partorito qualcuno che mi pare si chiama The Drums, un degli artisti che io vi consiglio perché il loro CD si fa ricordare per questo 2010. Astro Coast invece è il CD licenziato da questi Surfer Blood, un CD di circa 40 minuti, un po' citazioni noise, un po' anni 90. Secondo me è un disco che scorre gustoso senza troppi intoppi. Andiamo ad ascoltarceli e spero piaccia a voi così come è piaciuto a me. Surfer Blood, Floating Vibes, questa è Music for Youth. Yeah. Floating Vibes dei Surfer Blood, siamo tornati, Music for Youth in onda sulle onde medie di Radio Sherwood 97.800 e Radio Sandona 102.2, un po' di pubblicità local. www.radiosandona.it è il nuovo sito che vi consiglio di frequentare per dare un occhio ai nostri podcast insieme a tutti gli altri indirizzi che vi darò nel corso di trasmissione e ovviamente senza dimenticare www.sherwood.it, la radio che in parallelo ci trasmette e che ringraziamo sentitamente per questo anno 2010, l'anno che ci ha portato ad essere ospitati per la prima volta sulle frequenze di Radio Sherwood. Siamo tornati in studio, questa è Music for Youth e sfortunatamente state sentendo solo la voce di Lele, questo perché il buon Favotto non c'è e di ospiti in studio non se ne vedono. Siamo tornati in studio come si diceva poco fa e sono arrivati in studio con noi i Big Pink, ovviamente in maniera virtuale. Chi sono i Big Pink? Beh, un collettivo inglese che è portato dalla 4AD Records, un'etichetta che mai smetterà di dare soddisfazioni in casa Music for Youth e spero anche nelle vostre. Big Pink che esordiscono con un album che si chiama A Brief History of Love, dalla quale è stata Dominoes il singolo che andremo ad ascoltarci tra poco, un disco che veleggia tra il 2009 e il 2010. Io l'ho buttato dentro in questa playlist perché tutto sommato me lo sono ascoltato parecchio e sostanzialmente è un ascolto che io direi che posso consigliare anche a voi. Bando alle ciance, come piace dire al mio collega Favotto, purtroppo assenti, alla quale dedicherò anche una canzone in corso di questa ora di trasmissione, perché se non lo faccio sono veramente un cane. Music for Youth, Radio Sandona 102.200, Radio Sherwood 97.800, dall'album A Brief History of Love, questa è Dominoes dei Big Pink. ragazze che cadono ad effetto domino. Questa è Music for Youth. Siamo rientrati, Radio Sherwood 97 800, Radio Sandonà 102.2, Lele in regia e allo speaker privato del suo co-conduttore Alvise Favotto. Chissà le prese con quali problemi, faccelo sapere a radio@radiosandona.it, uno dei nostri tanti contatti, oppure scrivicelo su www.musicforyouth.com per i non anglofoni.wordpress.com, sito dal quale sono scaricabili tutte le puntate di Music for Youth trasmesse in corso di quest'anno ed anche l'anno precedente. Dateci un occhio se non avete niente da fare durante queste vacanze di Natale. Se avete qualcosa di meglio, qualsiasi cosa, anche zappare i campi, lasciate pure stare. È tutto molto trascurabile. Si diceva ragazze che cadono come domino, e quale migliore occasione per prendere nel mezzo i girls. Perché dico i girls? Perché in realtà è un duo maschile che però sia un nome femminile. Presenterò Heartbreaker, che è uno degli estratti dal loro ultimo EP. Girls, secondo me, un ottimo album, anzi, Girls, ottimi artisti che estraggono un album altrettanto buono dal cappello e dal loro cilindro. Sono una scoperta per questo 2010, scoperta secondo me insieme ai Deer Hunter, che però non andremo ad ascoltare, e nella mia classifica personale davvero piccola, al primo posto, insieme ai The National con il loro High Violet. Dopo Boxer hanno fatto gran bene anche con quest'ultimo lavoro. Si diceva Girls, una biografia un po' strana per questi due addetti ciarpame della musica. Perché dico così? Abusi di droga, sette religiose, perdizione, prostituzione e finale redenzione. Io direi che se ci fermiamo solo su questo è possibile anche andare sul pregiudizio bello e buono, ma poi i Girls sono anche capaci di estrarre della buona musica, nonostante siano stati consigliati da Pitchfork, che è un'altra rivista che a gonfiare l'hype ci pensa per bene. I riferimenti per questi ragazzi spaziano dai 50 ai 90, però l'ispirazione e un punto di riferimento adeguati io non sono stato in grado di trovarli. A voi lascio il giudizio. Questa è Music for Youth e questi sono i Girls con Heartbreaker. We'll be right back. Per buona pace di chi vuole trovarsi la recensione di quest'album dei Girls, l'album sappiate che si chiama Album, per cui se andate su Google o qualsiasi altro motore di ricerca, in bocca al lupo sostanzialmente, questo è il mio augurio. Siamo tornati in studio, Music for Youth, RSD 102.2, Radio Sherwood 97.800, ed è il momento delle scelte forzate. Perché il momento delle scelte forzate? Perché girava una mailing list tra i conduttori di Radio Sherwood e si è detto, beh, è tempo di mettere delle canzoni natalizie. Io ho guardato un po' con gli occhi al cielo e ho detto, vabbè, facciamo qualcosa di buono. E dove sono andato a pescare? Sono andato a pescare in casa Bright Eyes. Occhi luccicanti, chi è questo ragazzo? Conor Oberst torna su queste frequenze perché c'è già passato due volte, e se c'è passato ci sarà un motivo, ossia che sia a me che alla gente Favotto piace parecchio. Che cosa ha fatto questo ragazzo? È riuscito anche a comporre nella sua sterminata discografia, perché è uno che va un po' nell'overproduction, un po' come Ryan Adams. Ha fatto tempo anche a produrre un album che si chiama A Christmas Album, guarda caso. Noi da quel album abbiamo estratto Blue Christmas, che ce lo andiamo ad ascoltare. Questa è Music for Youth e questo è Bright Eyes. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so in studio di nuovo, Music for Youth, RSD 102.2, Radio Sherwood 97.800, e da Bright Eyes passiamo ai Vampire Weekend. Secondo me un'ottima scoperta degli ultimi anni, arrivano dalla grande mela, hanno bruciato abbastanza le tappe, secondo me hanno cercato di trovare qualcosa di nuovo dopo che attraverso la grande mela sono passati i Beirut, o penso anche i The Voce, che hanno magari portato delle influenze tra virgolette slave, possiamo definirle così. Hanno cercato dunque di passare anche attraverso il revival new wave degli Interpol, degli Editors e di tutti quelli che vengono da quelle parti, e si sono inventati qualcosa di nuovo. Paul Simonon, ex dei Clash, attuale di The Good, The Bad and The Queen, sarebbe molto molto contento di produrli, perché c'è una cosiddetta vena di afropop secondo me in quanto prodotto dai Vampire Weekend. Tra l'altro potete anche dare un'ascoltata intera all'ultimo CD che porta l'identico nome, per cui Vampire Weekend, l'estratto precedente si chiama Contra. Dicevamo Vampire Weekend, The Kids Don't Stand a Chance è il pezzo che ho scelto da quest'album, e tra l'altro è il pezzo che va a chiudere quest'album. Su Music for Youth, Radio Sherwood 97.800, Radio Sandona 102.2, questi sono i Vampire Weekend. Secondo me la capacità dei Vampire Weekend è quella di mettere in fila dei pezzi pop praticamente perfetti. Questa è la mia opinione e bando ai pregiudizi, un altro bel ragazzotto che è capace di fare qualcosa di buono all'interno della scena contemporanea statunitense è Kanye West. Ebbene sì, non mi sto svendendo, ma Runaway, che è il singolo che lui va a presentare sul mercato mondiale, vista l'uscita ultima del suo album targato 2010, è molto molto buono, per cui Runaway passa anche sulle frequenze di Radio Sherwood 97800 e Radio Sandona 102.2. Il titolo dell'album è lunghissimo, non ve lo so dire, come al solito la mia ignoranza si palesa anche nel finale di 2010. Nel frattempo la traccia è già partita, per cui basta con le mie parole, ho detto anche troppo. Runaway di Kanye West, questa è Music for Youth. Toast for the douchebags. Let's have a toast for the assholes. Let's have a toast for the scumbags. that I know. Have a toast for the jerk offs that'll never take work off. Baby, I got a plan. Run away fast as you can. Run away from the baby. Run away. Run away from the baby. Run away. Run away as fast as you can. Run away from me, baby. Run away. Run away from me, baby. Run away. Then I'm about to get crazy. Why can't she just run away? Baby, I got a plan. Run away as fast as you can. 24/7, 365. Pussy stays on my mind. I did it, alright, alright, I admit it. Now pick your next move, you can leave or live with it. It could buy a crane with that motherfucking top off. Split and go where, back to wearing knockoffs. High, knock it off, Neiman's shop it off. Let's talk over my ties, waitress top it off. Hoes like coaches wanna fly in your Freddy loafers. You can't blame them, they ain't never seen Versace sofas. Every bag, every blouse, every bracelet comes with a price tag, baby, face it. You should leave if you can't accept the basics. Plenty holes in a ball of nigga matrix. Invisibly set, the Rolex is faceless. I'm just young, rich, and tasteless. P. Never was much of a romantic. I could never take the intimacy. And I know I did damage. Cause the look in your eyes is killing me. I guess you knew an advantage. Cause you could blame me for everything. And I don't know how I'ma manage. If one day you just up and leave. Non so che piano sia quello di Kanye West, quello di scappare più distante e quanto più possibile velocemente può da non si sa cosa. Questa era Runaway di Kanye West. Siamo rientrati in studio Music for Youth, è l'ultima puntata dell'anno, 28-29 dicembre dopo Natale. Io non so come sia andato il vostro, ma il mio è finito davanti a una bottiglia di vino e presumo Capodanno andrà più o meno alla stessa maniera. Se avrete nostre notizie, sarà principalmente dal CERT. Dico se avrete nostre notizie perché Alvise a quanto pare si è già preso avanti con le pratiche e al CERT si è messo davanti, visto che non mi sta facendo compagnia durante quest'ora di programmazione che conduco da solo. Runaway di Kanye West continua in sottofondo, ma è già tempo di memorabilia anni 90 e infatti torniamo un po' indietro nel tempo e stiamo per parlare degli Smashing Pumpkins, un gruppo a me veramente caro insieme a Billy Corgan, a tutti quelli morti dietro di lui per overdose e alla rimpiazzata Melissa Auftermaur. Smashing Pumpkins si sono persi un po' dietro strada e sfortunatamente io ne ho parecchio dispiacere. Si diceva Billy Corgan, l'esperimento fallito di Cesare Ragazzi, a me è sempre piaciuto. Poi se chiami un gruppo spaccare zucche dall'attività di prendere le stesse zucche il giorno di Halloween e metterle davanti casa di gente che può permettersi una Mercedes al giorno e l'altra anche, io direi che meglio di così non si può andare. Perfect è un estratto dal loro greatest hits che si chiama Rotten Apples and Judas O, un doppio uscito nel 1998. Perfect è per l'appunto la traccia che io ho scelto dopo aver fatto passare qualche settimana fa 1979. Pensavo anche di mettere su Mayonnaise, ma sarebbe stato il tempo delle pere. Pensavo anche a Zero, ma forse era troppo tirata. Spazio quindi a Perfect. Questa è Music for Youth e questi sono gli Smashing Pumpkins. Lovers make a man. Billy Corgan ci promette che la prossima volta sarà perfetto, e lo speriamo bene, perché non è stato un buon 2010 per Billy Corgan e soci degli Smashing Pumpkins, che hanno rilasciato un album lungo, uno sterminio, mi pare addirittura 52 tracce, si chiama Tear Garden, come il famoso giardino di Berlino by Kaleidoscope. Non è stato un anno buono neanche per chi? Per Richard Ashcroft, che sotto le mentite spoglie di un nome altrettanto lungo quante le tracce di Smashing Pumpkins, il nome United Nation of Sound, ha prodotto un nuovo album che porta lo stesso identico titolo omonimo. Un album che a me non è piaciuto tanto, a parte il video, ma solo il video di Are You Ready, che è il primo singolo usato per lanciare per l'appunto l'album United Nation of Sound. Quale migliore occasione allora per arretrare al 1997, un anno prima il rilascio di Rotten Apples and Judas O, ovvero il Greatest Hits e gli Smashing Pumpkins, dal quale abbiamo ascoltato Perfect, l'estratto in precedenza passato sulle frequenze di Music for Youth. Si diceva Verve con un pezzo che si chiama Sonnet, da uno dei miei album preferiti dei Verve stessi, che è Urban Hymns, l'ultimo prodotto sotto l'etichetta che li ha ospitati prima di un lungo silenzio e ritorno solista di Richard Ashcroft. Io direi che Richard Ashcroft da solo non ha prodotto granché, però ci sono album che si fanno ricordare, tra cui il primo, che è A Storm in Heaven, ma soprattutto quel prodotto di B-side che si chiama No Calm Down. Mi ricordo un ottima A Northern Soul in versione demo, poi c'era anche Make It Till Monday in versione acustica, e addirittura un Blue in versione USA Mix, una cosa del genere. 1997, si diceva, Urban Hymns, arrivò il successo grazie anche al super campionamento di Bittersweet Symphony, per il quale fecero una causa lunga, una vita al leader dei Verve. Da Urban Hymns noi abbiamo estratto il pezzo che si chiama Sonnet, ed ora ce l'andiamo ad ascoltare. Questa è Music for Youth nell'ultima puntata del 2010. Faster than nella grande faida tra gli Oasis e i The Verve, io ho sempre portato per questi ultimi, parentesi parecchio personale. Siamo tornati in Music for Youth, Radio Sandona 102-200, Radio Sherwood, in onde medie 97-800, www.sherwood.it e www.radiosandona.it sono le due emittenti che ci trasmettono in streaming. Potete scaricare questa puntata insieme a tutte le altre da www.musicforyouth.wordpress.com, oppure fate riferimento al nostro gruppo Facebook, visto che il social network va per la maggiore. Il nome del gruppo è Music for Youth on Air, nel senso per aria, con la speranza che prima o poi questi studi salteranno per l'appunto in aria, contenendo me e l'assente Favotto in questa giornata di fine dicembre. Si ritorna al momento natalizio, come mi è stato imposto alla mailing list di Sherwood e con l'appoggio incomprensibile secondo me di Radio Sandona. E che cosa ho scelto? Ho scelto i Los Campesinos, Kindle a Flame in Her Heart. Chi sono questi Los Campesinos, ossia i contadinotti? Un gruppo indie pop formatosi nel 2006 a Cardiff in Galles. Tra l'altro, secondo me sono arrivati al terzo CD e non hanno proposto nulla di nuovo, cioè sono molto più capaci di andare ad ascoltarmi gli Architecture in Helsinki oppure i Broken Social Scene. Perché ho detto Broken Social Scene? Perché poi torneranno in qualche modo in corso di trasmissione, anzi in chiusura di trasmissione, attraverso un giro un po' lungo che vi spiegherò. Si diceva dunque canzone di Natale, l'hanno composta i Los Campesinos, che dopo tre album non sono capaci di fare granché se non di riproporsi, per carità godibilissima come cosa, ma anche sostanzialmente sterile. Dopo Old Now Youngster nel febbraio 2008, dunque niente di nuovo sul fronte occidentale per i Los Campesinos. Noi ci accontentiamo di una sorta di canzone cover natalizia, questa è Candle and Flame in Her Heart sulle frequenze di Music for Youth. Hark the herald angels sing, the boy is a cherub, let it be. You harmonize more beautifully than they could. At 8 years old, I played the role of Gabriel, dressed head to toe in white denim, though with less optimistic foresight. And it's not lightning like robbing red breastfeed in the snow. I'll hold you tight, you like your halo's line with mistletoe. No, ain't my heart like me, frost falling under my feet. Oh, silent night, how long we my stupid greedy throat. On the 17th you came around, my tiny teeth had been ground down, but then you turned them back to smiles with just one kiss. Now listen to this. It's not lightning like robbing red breastfeed in the snow. I'll hold you tight, your halo's lime with mistletoe. Throw in my heart like frost falling under my feet. On silent night, oh lonely Merry Christmas. Arms around me. Kindle Flame in Her Heart, scelgo questa dai da dedicare a Favotto, l'assente, il mio co-conduttore preferito negli studi di Music for Youth, anche perché è l'unico e mi tocca accontentarmi. Favotto, questa era per te, te l'avevo promessa che ti dedicavo una canzone, magari ho scelto proprio la più schifosa, immagino ti farà veramente cagare, ecco la parola che dovevo bannare da questa trasmissione per la chiusura del 2010, ma Sherwood e Sandona perdoneranno insieme. Siamo tornati, questa è Music for Youth ed è il tempo dei saluti, tra 10 minuti e qualcosa mi segnala il counter. Favotto, che mi ha fatto compagnia anche in quella di Norvegia, allora quale migliore occasione per riproporre un pezzo che è stato proposto anche durante il ritorno a settembre di Music for Youth sull'Etere. Si parla dei Beach House e questa è Norway. Beach House che escono da due album, uno omonimo che a me era piaciuto parecchio, ma che si confermano ancora di più nel 2010 con un capitolo tutto nuovo che porta il nome di Teen Dream. Porta anche una traccia che è Walk in the Park e un'altra che si chiama Zebra, ma io ho estratto da questa Norway perché in Norvegia ci sono andato con il buon Favotto in ferie e oltre a partire dal freddo ci siamo anche divertiti a guardare la fauna locale, e per fauna non intendo bestie, alci e sottoboschi vari che li ospitano. Beach House dunque si diceva ottima scoperta, anzi riconferma per il 2010, quale migliore occasione dunque per la chiusura di Music for Youth di quest'anno per ascoltarci Norway, Music for Youth. Lele al mixer e alla regia e anche alla conduzione, tocca fare tutto a me questa giornata. Tornati in studio verso la chiusura, questa è Music for Youth e a condurre ci sono solo io, Lele, purtroppo per questa chiusura 2010. Lo sapete che questo sarà un inverno pressoché lunghissimo, saremo coperti da coltre di neve, le macchine degli uomini non potranno nulla con la loro arroganza contro madre natura, le strade saranno vuote e se potremo ci chiuderemo in un capanno come aveva fatto Bon Iver nel 2008. Sto parlando di un ragazzo che in realtà si chiama Justin Vernon ed è stato, anzi è tuttora, uno dei miei artisti preferiti. Ha prodotto un album che si chiama Forever, Forever Ago, targato 2008, come dicevo poco fa. Si era chiuso in un capanno nel Vermont e ha fatto quanto di meglio potesse fare, delle tracce acustiche dove si sente nel sottofondo addirittura il parquet che suona ogni tanto. Stiamo per chiudere piano piano questa puntata di Music for Youth, oltre al pezzo di Bon Iver che andremo ad ascoltarci adesso, forse il più rappresentativo dell'album, che si chiama Skinny Love. Arriverà James Blake con una cover un po' strana di Faced, ed era per quello che io nominavo i Broken Social Scene su Music for Youth, Radio Sandona 102-200, Radio Sherwood 97-800. Questo è Bon Iver con Skinny Love. Da Forever, Forever Ago, questa era la splendida Skinny Love di Bon Iver e siamo davvero in conclusione di Music for Youth per quest'anno 2010. Vi siete beccati un'ora di Lele e vi meritereste veramente uno dei premi più grossi al mondo. Purtroppo invece vi posso dire che l'unico premio che è fornibile da Music for Youth è riportare Alvise Favotto in questi studi insieme a nuovi ospiti per tutto il prossimo 2011. Siamo giunti dunque in conclusione e deve partire anche l'ultima traccia. Che traccia abbiamo estratto? Si parlava di Broken Social Scene che sarebbero tornati. Perché dico Broken Social Scene? Perché ci suonava anche una certa Leslie, e quando c'è invece da parlare di cover non so mai da che parte partire, ossia se dal coverizzante o dal coverizzato, ossia da chi la cover la subisce. Non me ne voglia Faced stavolta, se prendo un po' più in considerazione James Blake, che tra l'altro questo bel ragazzo ha soli 21 anni, viene dall'Inghilterra ed è stato capace di fare una cover che è Limits, cioè Your Love di Faced, portandola su un territorio veramente di acque scure e profonde. A me sembra un buon metodo per concludere questo 2010 e per salutarvi. James Blake spero splenderà nel cielo stellato delle star del 2011, perché ha portato veramente qualcosa di buono dopo tre ottimi EP. Faced invece non diciamo assolutamente nulla, ha suonato con i Broken Social Scene ma ha anche un'ottima carriera solista e ha anche suonato insieme a Kings of Convenience, un'altra band che a me piace parecchio. Music for Youth si conclude qui per quest'anno, vi rimandiamo al 2011 e vedremo di arrivare fino almeno al 28-29 dicembre 2011, le date in cui ci state ascoltando. Music for Youth dunque vi saluta e vi lascia con James Blake, Limit to Your Love. Ciao a tutti da Lele. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or dare? There's a limit to your care. There's a limit to your love. Like a waterfall in slow motion, like a map with no ocean. There's a limit to your love. Your love, your love, your love. There's a limit to your care. So carelessly there. Is it truth or care? There's a limit to your care. Limit to your care. So carelessly there. There's a limit to your care. Slow, like a waterfall in slow motion. come up with no one.